Allora, ci sembrava potesse essere una navigazione tranquilla, magari non particolarmente brillante, magari non da vincerci una regata, magari troppo tranquilla, ma ci era parso che questo governo potesse navigare, ecco, usiamo questa parola un po' pericolosa, sereno. Invece sulla prescrizione e sul processo penale si incarta tutto. Italia Viva diserta il Consiglio dei Ministri, il Premier Conte si innervosisce e definisce i renziani un partito di opposizione aggressivo e maleducato, poi si parla al telefono col Presidente Mattarella. Cosa ci aspetta? Un altro esecutivo? Il voto? Bah, ad ora massima incertezza. Intanto la Commissione Europea mette nero su bianco, per parlare di cose importanti, che nel 2020 saremo l'ultimo paese europeo per crescita economica. Dal lato del coronavirus si vocifera di un piano europeo di frontiere chiuse in caso di emergenza, mentre tra poco dovrebbe partire il volo per il rimpatrio del 17enne italiano, ancora fermo a Wuhan. Per le chiacchiere da bar abbiamo la scuola del modenese che sperimenta l'emoticon al posto dei voti, il sindaco di Bolzano che vuole far raccogliere le deiezioni canine ed analizzare il DNA per risalire ai proprietari incivili, e il calcio con l'idea di sperimentare il VAR a chiamata da parte degli allenatori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ci son cascato di nuovo. Ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco vedermi prendere fuoco. Oh, e chissà se Giuseppe Conte non è il tipo da canticchiare la canzone di Achille Lauro in questo momento. Ci son cascato di nuovo, mi son fidato di Matteo Renzi che la maggioranza avrebbe retto, che sarei stato là, e invece traballa un po' tutto. Caro Claudio Velardi, spin doctor, analista politico e tante altre cose, come stai? Buongiorno. Bene, bene. Eccoci qua dunque. Eccoci. Con una situazione, diciamo, piuttosto complessa. Iniziamo da Conte, va proprio da Conte, che sì, si ritrova in questa situazione strana nella quale appunto nel Consiglio dei Ministri che deve varare la riforma del processo penale, che succede che Italia Viva non si presenta i due membri della delegazione, ossia Teresa Bellanova e la Bonetti. Bellanova, tra l'altro, campeggiano sui giornali delle foto in Russia con il Cremlino alle spalle, è in missione là. Dice Conte, Italia Viva deve chiarire al paese che cosa vuole fare. È chiaro che Italia Viva deve chiarire, ho detto anche oggi, non solo a me, al Presidente del Consiglio, anche al Paese, che cosa intendono fare, nella consapevolezza che se vogliono davvero far correre questo Paese, correre con noi, devono rendersi disponibili a correre. Claudio, come va a finire? Come va a finire non lo so, anche se grosso modo si può immaginare che, dato che al voto nessuno vuole andare, una qualche soluzione, diciamo, si troverà, magari più rabberciata, diciamo, della situazione che c'è oggi, però questo sembrerebbe il dato di fondo: al voto nessuno vuole andarci. Però. E questo dal punto di vista politico. Io poi, diciamo, sullo svolgimento di questi ultimi giorni, di queste ultime ore, per capirci qualcosa proverei comunque ad andare all'origine, cioè di non farci travolgere solo dalla chiacchiera politica. Perché il tema che sta alla base, diciamo, di questa crisetta più o meno virtuale, diciamo, è un tema molto serio, questo della prescrizione. Oramai lo abbiamo mandato in cavalleria, perché a tutti quanti noi piace chiacchierare di Renzi e di Conte, attivare le classiche baruffe chiozzotte, diciamo, all'italiana. Però il tema della prescrizione c'è. Perché noi siamo di fronte ad uno Stato che non è in grado di gestire e governare la giustizia nella maniera adotta. Si rifugia nella prescrizione, perché la prescrizione mica è una cosa bella, è una cosa brutta. Come dire, è la sconfitta dello Stato, no? Sì. Di fronte alle sue ma l'annullamento della prescrizione è lo Stato sconfitto che si vendica sulla pelle dei cittadini. E questa è veramente una cosa assurda. Allora, come si esce da tutto questo? Guarda che paradossalmente si esce esattamente con la linea che è stata scelta stanotte, e che cioè la prescrizione sta dentro la riforma del processo penale. Certamente. Andiamo un attimo al di là, poi ci sono tutti quanti antipatici, simpatici, ma alla fine ora si sta paradossalmente scegliendo la strada più giusta. Sì. Che era quella che forse, ma curiosamente tra l'altro era forse quella che voleva Italia Viva fin dall'inizio, che diceva appunto certo mettiamola nell'ambito. Ma allora, certo che sì. Posso aggiungere una cosa. Ora lo sport nazionale tirare addosso a Italia Viva e a Renzi, e questo è da anni così. Però che qualcuno contesti nel merito questa posizione di Renzi, compreso il fatto che adesso si va verso la soluzione che lui ha indicato. Poi Conte può sbraitare quando vuole, ma questo sta accadendo adesso. Allora, 349-238-6666, che non ve l'ho ricordato prima, ragazzi, lo sapete, tanto ormai lo conoscete il numero, 349-238-6666, gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, fate sentire la vostra voce su questa crisetta, come l'ha definita Claudio Velardi e come l'ha definita, anche se non sbaglio, Ettore Rosato, Italia Viva, insomma, quindi, insomma, è questa un po' la parola che sta circolando, naturalmente siamo in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate anche su Instagram, e là la raccomandazione è sempre quella: mandateci qualche vostra foto di quello che vedete la mattina dalla finestra, dal finestrino, per fare questo racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24 di quello che fanno la mattina. Ancora Conte. Ce l'abbiamo, vediamo, chiedo a Filippo Oreggi, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, questo Conte che dice Italia Viva un partito maleducato, un partito di opposizione aggressivo e maleducato, sentiamolo, va. Non c'è neppure più la norma buona fede nell'ambito di questo accordo, quindi si sfiducia un ministro buona fede per cosa? Lo si insulta pubblicamente, per cosa? Perché ha fatto in passato, quando era giovane, si è trovato qualche serata in discoteca, non so se è vero, a fare il DJ? Io lo conosco perché ha preso un dottorato di ricerca all'Università di Pisa. Sono tutte cose che da un partito d'opposizione che volesse fare l'opposizione in modo aggressivo, in modo secondo me anche maleducato, si possono accettare. Da un partito di maggioranza, chiedo agli italiani, si possono accettare queste cose? Oh, allora, vabbè, la battuta viene facile, Insomma, da un Presidente del Consiglio, la cui provenienza è il Movimento 5 Stelle, che insomma proprio un'opposizione... Si potrebbe finanche aggiungere, e sui curriculum del quale ti è discusso... Sei cattivo. Andiamo a sentire Renzi, ma se Conte vuole aprire la crisi, la apra. Caro Presidente del Consiglio, se vuoi aprire la crisi... apri la crisi. Italia Viva ti ha chiesto un'altra cosa. Noi non ti abbiamo chiesto di aprire la crisi. Ti abbiamo chiesto apri i cantieri, sblocca le infrastrutture. Oh, e ancora su garantismo e giustizialismo. Si è detto senza polemica al Presidente del Consiglio che non si può dire che garantismo e giustizialismo sono la stessa cosa. Perché se qualcuno dice che garantismo e giustizialismo sono la stessa cosa, quel qualcuno dice un'assurdità. È come se qualcuno dicesse che democrazia e dittatura sono la stessa cosa. E qua riferimento a un tweet di Conte, a parole di Conte, che aveva detto: non chiedetemi se sono garantista o giustizialista, ma cerco una soluzione per l'equilibrio del paese. Chi sentiamo? Bah, sentiamo anche Zingaretti, no? Giustamente, anche l'altra parte, l'altro pezzo della maggioranza, l'EU un po' silente in queste ore. Non ci sarà la crisi, dice insomma Zingaretti. Sentiamo, ma io non credo che siamo, e non ho elementi per dire che siamo alla vigilia o in presenza di una crisi che nessuno per la verità ha dichiarato. Il presidente Conte, credo oggi con la sua posizione, ha chiesto a tutti un atto di chiarezza. È evidente, io penso, che questo governo, che è il secondo in questa legislatura, in qualche modo sia anche coincida la sua fine con la fine della legislatura. Ma non credo che siamo oggi in questa situazione. E poi l'opposizione con Matteo Salvini. Lo avremo tra l'altro ospite alle 8.20 con Maria Latella. Ci sarà con noi Matteo Salvini. Conte alla canna del gas, dice. Ormai è chiaro che questo governo è alla canna del gas, litigano ogni giorno su tutto. Oggi c'è Renzi contro Conte, Italia Viva contro il governo, il PD contro Italia Viva, all'interno dei 5 Stelle c'è un tutti contro tutti. È chiaro che in un momento economico già difficile avere un governo che riesce solo a litigare, a rinviare e a non decidere è una follia, è un danno enorme per l'Italia e le imprese italiane. Ok, poi è un... c'è questo tema, Claudio, che insomma, in questo momento rimane un po' sotto traccia. L'ha sottolineato Renzi, l'ha sottolineato adesso l'altro Matteo Salvini. Insomma, chiaramente la battaglia sulla prescrizione, sul processo penale, è una questione di civiltà giuridica, ce lo siamo detti mille volte, è importantissima. È vero anche che stiamo vedendo una maggioranza dal momento delle elezioni regionali, che dovevano essere il punto di svolta, completamente imballata su questo tema. Direi che questo è il punto. Il punto è esattamente questo. Il giorno dopo le elezioni regionali, quando il centrosinistra, insomma la maggioranza attuale, ha tirato un sospiro di sollievo, in particolare il PD, si è detto adesso si apre la seconda fase, adesso facciamo un programmone e continuiamo la legislatura alla grande. Ma chi gliel'ha impedito di farglielo? Mica la discussione sulla prescrizione o Renzi. Perché non sono andate avanti? Non è che tu nel corso di una giornata ti occupi solo di prescrizione, caro governo. Qualcuno si occuperà di prescrizione e nel frattempo il governo lavora e fa le cose che deve fare. Invece loro sono appunto totalmente imballati, non tanto sulla prescrizione, ma su questo esattamente, cioè sul fatto che non mettono in moto misure per la crescita, che è il problema drammatico che ha questo paese e per la verità ce l'ha, diciamo, non da adesso. Adesso si vedono anche i risultati del primo anno di governo giallo-verde, perché questo è il punto. I dati, come sappiamo, come sai benissimo tu, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio 24, i dati poi arrivano a valle di un percorso, sì, appunto, di crescita o di decrescita, sì. Quindi noi adesso stiamo scontando tutti quanti i danni che si sono prodotti negli ultimi, diciamo, negli ultimi 2 anni. Se mi è consentito di dire, forse negli ultimi 20-30 anni, a dire il vero, nel senso che quello che vediamo oggi, queste previsioni di crescita che ci indicano ancora una volta fanalino di coda nel 2020 con uno più 0,3%, sono le previsioni della Commissione Europea di ieri. E sì, vanno malino anche Francia e Germania, però insomma nulla di paragonabile a come andiamo noi. E beh, sono un problema storico italiano, no? Qualche ascoltatore ci diceva, insomma, cala la produzione industriale più degli altri, dice, ma parliamo degli ultimi dati, però cala anche nel resto d'Europa. Però il problema grosso è che quando si cresce noi cresciamo meno degli altri, quando si cala caliamo più degli altri. Questo è un problema storico italiano, sono queste le questioni da affrontare, sulle quali si stanno aprendo i famosi tavoli dei quali lungamente abbiamo parlato, il tavolo che poi viene suddiviso in un altro tavolo e ancora altri tavolini. E però forse, Claudio, scusami, qua c'è un problema di semplicemente di accordo, non so come dire, di culture politiche che faticano a parlarsi, proprio su queste questioni, sulle questioni economiche. Su questo non c'è alcun dubbio, su questo ci sarebbe certamente una maggiore intesa tra il PD e Italia Viva che non tra il PD e 5 Stelle, poi tutto sommato, perché il fattore di resistenza su una linea di sviluppo e di crescita sta più dentro la cultura politica dei 5 Stelle. Anche se però i 5 Stelle oggi sono in una situazione di particolarissima difficoltà, quindi, come dire, la maggioranza dovrebbe fare perno sulla cultura un po' più sviluppista, diciamo così, del PD, che, come dire, insieme a Italia Viva, va, mettiamola così, potrebbe essere il motore, diciamo, di una fase di sviluppo, di rilancio delle infrastrutture. Ora io non voglio apparire come il difensore di Renzi, sì, poi lo difendo, però quello ha lanciato un piano di 13-14 miliardi, non sa quanto, per le infrastrutture, se ne discuta. Vediamo se sono cose vere, possibili, o se son cose false, facciamole, se si possono fare. Perché non si fa? Semplicemente perché non si vuole dare una medaglietta a Renzi. E beh, allora ditelo però, insomma. Traffico. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Mattino. Letterina a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, ti prego, fai in modo che le prossime elezioni, qualunque esse siano, siano più lontane nel tempo possibile, perché io non ne posso più di questa campagna elettorale perenne. Oh, il nostro ascoltatore l'abbiamo ripescato, un po' datato, di qualche settimana fa, però l'abbiamo ripescato perché, insomma, qua guardiamo tutti con terrore ad un'altra campagna elettorale dopo che ne abbiamo appena conclusa una. Poi, per carità, naturalmente, se succede, insomma, si va al voto, si ridà la voce al popolo, come si dice, quindi benissimo così. È la fatica, diciamo, della campagna elettorale in sé. Allora, vabbè, qualcuno ci dice, ho la certezza adesso, Radio 24 è diventata la radio di Italia Viva. Ragazzi, ma cosa state dicendo? Ma siete impazziti? Tra le tante questioni, mi fa piacere mettere una sottolineatura su questo. L'audio non è ottimo, perché è sempre così da questi immensi palazzi come quello della Corte dei Conti. È un tema che abbiamo affrontato molte volte e a volte ci avete detto no, ma è un problema degli enti territoriali, e parliamo del terremoto, del fatto che non si riescono a spendere i fondi, non si riesce a far partire la ricostruzione, non si riescono nemmeno a rimuovere le macerie. C'è un apparato burocratico mostruoso creato con le varie ordinanze e con le varie leggi sul sisma, e ieri finalmente lo attesta anche la Corte dei Conti. Sentiamo Buscema della Corte dei Conti. L'attenzione con tono successivo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato si è concentrata sia sugli strumenti di analisi dell'efficienza, dell'efficacia e compiuta delle gestioni stesse, sia su indagini legate all'ambito più specifico delle politiche pubbliche. In tale contesto sono stati evidenziati in alcuni settori dell'azione pubblica il ritardo nell'uso delle risorse finanziarie disponibili, la farraginosità delle procedure, l'inadeguatezza delle strutture organizzative deputate alla realizzazione, nonché la verifica e il monitoraggio degli interventi. Insomma, questo è, ci dice la Corte dei Conti. Oh, altro tema, insomma, affrontato molto nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, è quello delle... Guarda, per me è una cosa incredibile che negli ospedali italiani avvenga periodicamente che i medici, il personale sanitario in genere, venga aggredito. Così. Ho letto che nei giorni scorsi a Brindisi addirittura un chirurgo è stato interrotto durante un intervento. Perché la gente arriva, si arrabbia, devi intervenire prima per me, poi il codice rosso lo devi dare a me, non lo devi dare a quell'altro, ma insomma è incredibile. Dunque interviene il Parlamento e lo fa come al solito, dato che è un paese che pensa di intervenire solamente col codice penale, lo fa ovviamente col codice penale, aumentando le pene per chi subisce, per chi commette aggressioni in ospedale. Non solo con quello, viene costituito un osservatorio, altro elemento mitologico, l'osservatorio. Però chissà se Giampiero Fusco, medico del 118 del centro di Napoli, membro dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, insomma tra le persone che più spesso ha denunciato tutto questo, è soddisfatto di quello che è passato ieri in commissione alla Camera, poi deve andare in aula, però insomma mi sembra che l'approvazione definitiva sia molto vicina. Fusco, buongiorno, è contento? Buongiorno a tutti. Direi di no, perché purtroppo non è passata la mozione, tutto il lavoro fatto dalla deputata Michela Rostan relativamente al ruolo dei pubblici ufficiali per tutti gli operatori, per tutti gli esercenti delle professioni sanitarie. questa mozione è stata purtroppo bocciata dopo due anni di iter, due anni di lavoro, per cui non potremo avere diritto al ruolo di pubblici ufficiali. Questo per noi è una delusione enorme. Cioè, l'essere pubblici ufficiali vi avrebbe tutelati di più, in sostanza. Assolutamente, perché ci avrebbe dato la possibilità di agire d'ufficio per un'eventuale aggressione, ormai non più tanto eventuale, quasi usuale. Quante ne sono dall'inizio dell'anno, Fusco? Abbiamo superato dall'inizio dell'anno, credo che siamo a oltre 30. Oltre 30, ma solamente oltre nella 30. Vostra area, nell'area del napoletano? Assolutamente sì, ed è una situazione ormai insostenibile, molti colleghi stanno abbandonando, alcuni che potevano avere la possibilità di lavorare nella nostra stanno rinunciando, perché si è creato un clima assolutamente di alto rischio, al di là di sovraesposizione in tema di responsabilità professionale, perché il lavoro è tanto, ma quando cominciano a esserci problemi anche di natura fisica, lei capirà bene che uno comincia a valutare anche altre alternative professionali in altri luoghi. Eh sì, l'ultima aggressione quando è stata, Fusco? L'ultima aggressione in ordine di tempo sarà stata, sì, circa tre giorni fa, è stata un'aggressione di tipo verbale, la collega si era avvicinata ad una persona per soccorrerla, l'equipaggio è stato aggredito dai familiari che davano fretta, hanno impedito alla collega di fare un'analisi corretta e adeguata della situazione, chiedendo assolutamente che doveva essere trasportato in ospedale, non gli hanno dato manco il tempo di rilevare i parametri. Poi alla fine questa signora non è stata portata in ospedale a forza, ma alla fine per un codice verde. Cioè, non ci danno nemmeno più la possibilità di renderci conto che tipo di aiuto potevamo dare, e anche in quel caso il ritardo non c'entrava, l'equipaggio è arrivato in 5 minuti. Qua ci scrive un ascoltatore, dice: mi sbaglio, è un problema focalizzato su Napoli? No, a Napoli mi sembra sia particolarmente forte, no, ma in realtà Napoli è particolarmente sentito, sì. Però mi permetta di rilevare quello che ho detto grazie a voi anche in altre circostanze, dobbiamo aumentare il numero di ambulanze, il numero di colleghi e operatori in genere che lavorano nel servizio emergenza, perché noi soffriamo di una carenza notevole da anni. E quello è uno dei motivi per cui si arriva all'aggressione, perché purtroppo noi gestiamo una mole di lavoro enorme, quasi 1 milione di abitanti, gestiti soltanto con 11 ambulanze medicalizzate. Non riusciamo a gestire le esigenze di tutta la popolazione, anche perché noi a Napoli lavoriamo non soltanto sui codici rossi come dovremmo, ma anche sui codici gialli e sui codici verdi. Certo, anche per il servizio psichiatrico, insomma, si lavora su tutto e non ce la facciamo. Devo però dire che arriveranno 50 infermieri, finalmente, autisti, e è stata fatta anche la gara d'appalto per l'acquisto di 4 nuove ambulanze. E vedremo se le cose miglioreranno. Grazie Giampiero Fusco, medico del 118 dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, per essere stato con noi. Claudio Velardi, ci sentiamo alla prossima. Ciao Claudio, buona giornata. Ciao. Buona giornata. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa e con Paolo Mieli. Ciao.